Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che è arrivata alla fine delle sue trasmissioni per questo ciclo 2020-2021, e come si fa sempre alla fine ci giriamo le spalle per guardare le tante voci, le tante narrazioni che abbiamo cercato di riportare in questa trasmissione, e tantissime di queste poi erano dedicate a Gianni Rodari. Torniamo dunque infine sull'importanza anche nella letteratura di Gianni Rodari con Davide Orecchio, che è responsabile della biblioteca Casa delle Letterature, che appunto valorizza anche la portata di Rodari nel leggere nel nostro paese. Un intervento che abbiamo tratto dalla rete durante l'incontro su Gianni Rodari tenuto nella Mediateca Romana. Dopo lo stacchetto musicale la parola dunque a Davide Orecchio. Intanto un fatto che oggi ancora nelle principali storie della letteratura italiana contemporanea, le due più blasonate, più citate, a scorrere l'elenco dei nomi si scopre che Rodari è assente. Tra Ceccardo, Roccatagliata, Ceccardi, quindi tra Roccatagliata e Romano Lalla, manca il nome di Gianni Rodari, come se appunto fosse un nome del tutto trascurabile nella storia della letteratura italiana del Novecento, omissione a mio avviso gravissima, per un semplice fatto, perché io mi auguro che, anzi sono certo che la somma dei lettori di Roccatagliata e di Romano e di Lalla Romano arrivino a quei 25 lettori di manzoniana memoria, ma sono altrettanto certo che i lettori di Gianni Rodari sicuramente ammontano oltre quei 25 milioni che hanno imparato, anche se hanno imparato a leggere, si sono avvicinati alla lettura, che hanno frequentato la scuola con successo e magari sono diventate anche lettori, successivamente lettori forti, grazie appunto al primo contatto di lettura che hanno avuto con l'opera di Gianni Rodari. Quindi una omissione di Rodari in questo contesto è un fatto sufficientemente grave, direi. Tanto più grave perché evidentemente denuncia un'idea della letteratura che è legata ancora a dei cliché che sono quelli fin troppo tradizionali di una letteratura alta o comunque di una letteratura blasonata, di scrittori veri, e quella invece di una scrittura per l'infanzia come se fosse una letteratura di serie B o una letteratura di grado inferiore, che è ovviamente una stortura prima ideologica e poi di prassi interpretativa. Tanto più che se noi facciamo i conti con quello che è poi l'argomento invece che più mi compete, e cioè con la diffusione della lettura, con quelli che sono gli indici statistici della lettura degli italiani, probabilmente se facessimo il solo calcolo su Gianni Rodari scopriremmo che generazioni di studenti hanno ricevuto una sorta di invito alla lettura. In questo non, come dire, praticando una letteratura più facile, perché la letteratura per l'infanzia in realtà è una letteratura che solo apparentemente è più facile, direi che è semplicemente di più facile accesso, però quello che andrebbe sottolineato è che proprio per poter realizzare una scrittura che poi inviti alla lettura di sé e quindi faciliti l'accesso alla lettura, evidentemente l'attrezzatura, intendo metaforicamente, del laboratorio dello scrittore deve essere un'attrezzatura di qualità, perché riconvertire tutto un apparato intellettuale dalla dimensione dell'adulto che percepisce il mondo, riconvertirlo alla visione e alla espressione del ragazzo, del fanciullo, non è un'operazione semplice, non è un'operazione semplice nemmeno sul piano, come dire, stilistico, linguistico, strutturale, che poi sono gli elementi diciamo, che danno sostanza all'opera letteraria. Questo mi premeva sottolineare, cioè il fatto che quando si parla di Gianni Rodari troppo spesso si parla di letteratura per l'infanzia come se fosse una letteratura di serie B, e questo direi che è proprio la prospettiva che mi auguro restituiscano invece a Gianni Rodari quel ruolo di intellettuale di primo livello e soprattutto di scrittore che ha saputo, attraverso un laboratorio di scrittura particolarmente ricco, particolarmente sofisticato, perché chi riesce a riconvertire la propria scrittura a livello del ragazzo, riesce addirittura ad incentivarne la lettura, tanto da trasformarlo in quello che sarà poi da grande, un lettore forte, un lettore fidelizzato, beh, sicuramente è uno scrittore che non ha qualcosa in meno rispetto agli altri, ma forse ha una consapevolezza del proprio mestiere di scrittore che in qualche caso lo colloca sicuramente tra quei due nomi che appunto citavo all'inizio, cioè Roccatagliata e Romano, senza togliere nulla né al poeta né alla scrittrice, ma che comunque, insomma, il percorso di studi, di ricerca, di celebrazioni che devono essere un'occasione per rilanciare su Rodari, possa, come dire, contribuire a restituire a Rodari il ruolo che gli compete nella letteratura italiana contemporanea. Se io fossi un fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato e profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Cile i poveri, i bambini, i vecchietti, gli uccellini. Sarà da studiare a memoria un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Lai lai la lai la da studiare a memoria un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. In tutto l'anno cerchiamo di scandagliare le funzioni del fumetto, delle graphic novel, il lungo e il largo. Ma dove va il fumetto? Dove va la graphic novel, prima e dopo la rete? Sentiamo, tratto dalla rete, pareri così, uno dietro l'altro, di operatori del settore, a cominciare da Zero Calcare, Mario Gomboli, Matteo Stefanelli, Federico Memola, Leo Ortolani, Boris Battaglia, Ettore Gabrielli, Massimo Giaccone, Antonio Serra. Tutta gente che davvero ha le mani sporche d'inchiostro. Cioè, i fumetti sono una cosa che uno fa da solo, nella propria cameretta, che saranno dopo mesi vendute a persone che lo leggeranno da soli nella propria cameretta. Io credo che il mondo del fumetto sia cambiato da quando è nato. Il mondo del fumetto è poi il mondo, e quindi inevitabilmente ha seguito le mode, ha seguito quello che succedeva attorno a lui, no? Gli altri mezzi di comunicazione. E lo stesso ovviamente è successo quando sono arrivati altri media a affiancare il fumetto. Il web, il computer, no? Che hanno influito più lentamente sul modo di produrre i fumetti, inteso come l'intervento del computer sul disegno, il ripasso a computer, ma sui contenuti sì, sicuramente. Non si può non tener conto del fatto che esiste un mondo parallelo. Thank you. negli anni 80 e 90 il fumetto era ancora un settore con delle soglie di ingresso abbastanza consistenti, cioè gli editori non erano moltissimi, erano stati di più negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60. Negli anni 80 e 90, nonostante alcuni fenomeni di massa molto grandi, anche in Italia, ma da fumetto Disney, Topolino, al boom di Dylan Dog, eccetera, però i soggetti produttivi erano un numero abbastanza limitato e quindi le opportunità di trovare piattaforme di pubblicazioni erano limitate. L'edicola è in caduta libera, per tanti motivi, uno dei quali è colpa o responsabilità del web. Il fatto che i quotidiani vendano un terzo di quello che vedevano prima vuol dire che un terzo di persone va abitualmente in edicola a comprare il giornale. E la gente che andava in edicola a comprare il giornale poi si guardava attorno e magari comprava anche qualcos'altro e magari, e perché no, i fumetti. Aver perso questi lettori d'impulso è stata una mazzata dura. Cioè, il mondo del fumetto perde regolarmente un 15% l'anno. Se pensiamo che Tex e Dylan Dog vendevano circa 600.000 copie solo di inedito, all'epoca ognuno dei due, e entrambi con le ristampe arrivavano sul milione di copie al mese, ogni mese, e oggi Tex, che è la testata più venduta, che quella ancora va meglio eccetera, vende circa 150.000 copie e Dylan Dog è appena sotto le 100.000, si ha un'idea del calo drastico che c'è stato in questi ultimi 20 anni. Sono nati i problemi a partire dal 2010, perché era stata introdotta una legge che voleva tutelare i giornalai dall'essere soffocati da questi allegati che c'erano, tipo, non so, la collezione delle pentole di Padre Pio, faccio per dire. I giornalai hanno recepito questa cosa a modo loro e non era prevedibile, cioè loro espongono adesso soltanto quello che secondo loro vendono. Questa cosa qua ha cominciato a minare la base proprio dei lettori, perché comunque sia, se secondo loro non venivano venduti dei fumetti, non li esponevano e li rimandavano al distributore. Alla fine degli anni 90 il fumetto ha cominciato a riessere veicolato però attraverso un oggetto diverso, che sono i libri, chiamandoli graphic novel. La libreria di Vaia una volta era praticamente assente, invece adesso ospita molti fumetti e ospita anche edizioni magari di lusso, ma di fumetto a larga diffusione, dal Bonelli alla Marvel alla DC. E sicuramente uno dei grossi cambiamenti sono stati la nascita di un settore, di una definizione commerciale come graphic novel, che è servita poi come ariete per entrare nelle librerie di Vaia, piuttosto che nei programmi televisivi, piuttosto che nella cultura, fra virgolette, alta. Una volta l'editoria fumetti non è che fosse molto curata dal punto di vista della grafica e, diciamo, del materiale su cui stampavi. Adesso invece tutti quanti i libri a fumetti sono super curati, perché per il gruppo ristretto di gente che compra ancora il cartaceo gli devi fornire un prodotto che poi sia bello, sia proprio fatto per i feticisti anche dell'oggetto libro, dell'oggetto fumetto. Il successo del fenomeno graphic novel è anche figlio della pressione che internet ha esercitato sul fumetto cartaceo, costringendo il fumetto su carta a essere un oggetto più consistente rispetto all'inconsistenza della lettura su telefonino o su computer. E quindi non è un caso che il fumetto in libreria continui a crescere mentre il fumetto in edicola continui a decrescere. Il fumetto in libreria è un fumetto più consistente, ha un valore, ha una sua fisicità, è sempre meno usa e getta, è sempre più da conservare, è un oggetto prezioso, no? Ancora oggi il fumetto gode di una salute difficoltosa, come perché vive nel mezzo della crisi dell'editoria, che è una questione ormai annosa, insomma. Ma nello stesso tempo ancora di una salute molto forte, che permette, se vai in libreria ad esempio, no, di vedere tantissimi, un bancone ricchissimo di proposte a fumetti e così via. Quello vuol dire che, insomma, la forma espressiva è tutt'altro che esaurita, tutt'altro che perso la propria capacità espansiva, insomma. Quindi io sono contento così. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono, per una vera mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. E dalle bellissime nuvole tratto dal disco di De André, torniamo invece alle nostre più terrene nuvolette e, continuando a parlare di fumetti, ma al tempo della rete e al tempo delle graphic novel, ascoltiamo altrettanti pareri di esperti del settore di fumettisti, cominciando con Alessandro Baroncini, Teresa Marzia, Stefano Tartarotti, Patrizia Mandanici, Bianca Bagnarelli, Capitan Artiglio, Giacomo Bevilacqua, Simone Manfrini, Emiliano Mammucari. La mia generazione è una generazione un po' strana, perché io ho imparato prima a disegnare guardando il foglio con la matita e poi ho imparato a disegnare guardando con la tavoletta grafica al computer, ok, col monitor così, e adesso ci sarà una terza generazione che ricominceranno a disegnare guardando di nuovo con la testa bassa il foglio, però il foglio elettronico, un foglio, è un computer con cui si disegna. Con la Cintiq, cioè, abbiamo veramente toccato il cielo con un dito, perché abbiamo oggetti veramente molto grossi, con una superficie tipo che imita la carta. Hai veramente l'impressione di disegnare su un foglio di carta, perché alla fine qual è l'idea? È riuscire a saltare un passaggio che è quello dell'acquisire il foglio con lo scanner, perché poi devi vedere come rende la matita, prima non si poteva stampare, poi non ce n'è stato più bisogno, quindi perché prima bisognava passare la china per poterla stampare. Bypassando la stampa e pubblicando direttamente in digitale, a quel punto uno può pubblicare anche le cose disegnate a matita. Addirittura poi con la tavoletta si può addirittura bypassare quell'ulteriore passo e disegnare direttamente con la tavoletta, che è una cosa che personalmente a me non piace molto, devo dire, perché io amo proprio avere, cioè, il contatto del foglio, della carta, e vedere il segno della matita. Per me è quello il piacere, il segno. Io mi trovo bene con le tavolette grafiche, sono pigro rispetto alle tecniche tradizionali, mi permettono di disegnare e correggere all'istante le cose senza tutti i tempi tecnici dell'asciugatura dell'acquarello, all'errore sull'acquarello, alla sbavatura sulla carta. Per il disegno digitale io ho cercato soprattutto pennelli che ricreassero l'effetto del pennello che usavo sulla carta, e anche per il colore la stessa cosa, no? Ci sono tanti pennelli che ricreano un po' l'effetto se si usa su carta ruvida, meno ruvida. Ho una Cintiq media 22 HD, che ho non da tantissimo tempo, in realtà prima usavo quella più piccola, per cui è stato bello passare a avere la libertà di movimento, di fare effettivamente dei movimenti che corrisponderebbero di più alla realtà, diciamo, e non lavorare da miniaturista. Il grosso aiuto del digitale è che con una shortcut, con un tasto, ti gira lo schermo, quindi tu non hai bisogno di usare lo specchio per la simmetria, tutte quelle cose scomode che fai in realtà con col tradizionale. Molti autori stanno un po' facendo marcia indietro per due motivi fondamentalmente. Primo, perché così non hanno originali da vendere, e secondo, perché il materico e piacevole. A molti autori che lavorano con la tavoletta grafica dico: beh, bravi, così vi state fottendo la vostra pensione, perché diciamo quello che resta di solito dopo una vita di disegni per un autore di fumetti sono gli originali, che alla fine puoi vendere o svendere. Adesso quelli non esisteranno più. Ci sono due scuole di pensiero, c'è chi dice ah, digitale no no no, e chi dice carta no no no no. Io sono passato al digitale, ma non aborro la carta totalmente, dico che con me non funziona, però se effettivamente la carta funziona, per qualcuno è quella la strada. Io comunque cerco sempre di replicare il segno, tra virgolette, che facevo sulla carta, perché è un segno che io sulla carta non so gestire, ma sul computer ho più sicurezza. Non la vedo come una sconfitta, la vedo proprio come un passaggio di territorio, se sono passato su un territorio completamente diverso. Lo strumento è finalizzato al risultato, al pensiero, e quindi abbandonare uno strumento al posto di un altro è solo che un impoverimento, è meglio mantenere le possibilità aperte. Io non sono nostalgico, non sono uno per era meglio prima, oppure prima le cose erano calde e adesso invece sono fredde. È cambiato il supporto, è cambiato lo strumento, però la mano sullo strumento ce la metti tu. La mia generazione è una delle ultime generazioni che ha iniziato soltanto disegnando con la mano, e io spero che non si perda mai, perché la mano ha questa possibilità di catturare qualcosa di un po' più impensabile. Adesso che ci sono tutti questi strumenti nuovi, che quindi l'accesso alla strumentistica è più agevole, la vera differenza la fanno i contenuti. Quindi a un ragazzo io direi: comincia a lavorare sui contenuti, comincia a vivere, a mettere dentro questo scatolone qualcosa di importante. E anche quest'anno siamo arrivati in fondo alla fine del ciclo di trasmissioni per l'anno accademico 2021-2022, naturalmente riprenderemo ad ottobre. Abbiamo sentito in questo percorso, in questo lungo viaggio, tante voci, tanti ragionamenti, abbiamo seguito piste di didattica, di pedagogia, di fumetti ovviamente, di pezzi di storia del nostro paese. È il momento di prenderci una pausa, una sosta estiva. Nel frattempo continueremo a guardarci intorno, a vedere cosa succede in questo mondo delle nuvolette. Per adesso è tutto, quindi ci lasciamo col classico ciao di Lucio Dalla, che va a siglare le nostre stagioni. Della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfuggerà le dita.